Capitolo 27. Venezia, 30 agosto 1548. Sagoma nera stagliata sulla porta. Duarte Gomez fa un passo, si ferma e batte il tacco dello stivale. Volto olivastro, tratti curati, leggermente femminei, interrotti da una piega sulla fronte. Un cenno a Demetra, che allontana le ragazze. «Che succede? Vieni, ti prego». L'attendente dei Mickets mi accompagna fuori, nel sottoportico, e poi nel vicolo, dove si passa uno alla volta. I due fratelli sono lì, come i due sicari che aspettano al varco la vittima. Joao, più alto, con un grande cappello nero ornato da un nastro di cuoio. Bernardo, con l'aria da ragazzino e un buffo accenno di barba sotto il mento. Le toledane spuntano da sotto i mantelli. La luce va calando ogni momento di più. «Che succede, signori? Perché questo mistero?» Il solito sorriso è incrinato, quasi si sforzasse di offrirlo anche se lo stato d'animo non glielo consentirebbe. «Hanno preso Perna». «Dove?» «A Milano». «Che cazzo ci fa a Milano? Non avevamo deciso di lasciar perdere la piazza?» I volti dei tre sefarditi diventano più cupi. La luce continua a diminuire. Doveva fermarsi a Bergamo, raccogliere i soldi dei librai e tornare indietro. A quanto pare ha voluto rischiare. L'accusa è di vendere libri eretici. Ascolto il mio sospiro risuonare da un capo all'altro del vicolo. Mi appoggio al muro. «Il Santo Uffizio? Puoi scommetterci?» Gomez, nervoso, continua a sbattere i tacchi sul selciato. «Cosa facciamo?» Joao mostra un foglio arrotolato. «Paghiamo e lo tiriamo fuori prima che la faccenda diventi troppo seria. Duarte parte questa notte. Il Gonzaga mi deve dei soldi. Gli ho proposto di estinguere il suo debito se metterà una buona parola. Funzionerà? Spero di sì. Merda, non mi piace Joao, non mi piace per niente. È stato un caso, ne sono convinto. Sfortuna e avventatezza. Pessimi presentimenti. Non riesco a pensare. Il maggiore dei Mickets mi offre il suo sorriso più sincero. Stai tranquillo, sono ancora il finanziatore più importante in città. Non oseranno toccarci». Spingo le mani su entrambe le pareti, come se volessi spostarle. «Fino a quando, Joao? Fino a quando?» Venezia, 3 settembre. Forse qualcuno è riuscito a mettere assieme i pezzi dell'incastro. Brutte notizie da Napoli. Infante, il nostro referente laggiù, è stato messo in prigione e sarà torchiato dagli inquisitori. Lentamente stanno scoprendo la trama che abbiamo intessuto in questi 2 anni. Cardinale Carafa non ha ancora schierato in battaglia i suoi pezzi forti. Finché restano in auge Paul, Marone, Soranzo e tutti gli altri spirituali, ha le mani legate. Se Reginald Paul diventerà papa prima che Carafa riesca a passare all'attacco, l'Inquisizione verrebbe fermata. Tutti i giochi si riaprirebbero. Perfino la scomunica del beneficio di Cristo verrebbe sospesa. Trame troppo estese per un solo uomo, forse anche affascinanti, per chi è giunto nel 5° decennio della vita e riesce ad apprezzarne la geometria, il disegno. Ma c'è qualcos'altro da fare, qualcosa di personale. Qualcosa che aspetta da 20 anni. Quando i muscoli cominciano a irrigidirsi, le ossa fanno male, i conti rimasti aperti diventano più importanti delle battaglie e delle strategie. Tiziano Nanabattista dovrà colpire ancora, ma lontano da qui. Con l'aria che comincia a tirare, occorre tenere la vendetta lontana dagli affari veneziani. Devi venirmi a cercare perché io possa prenderti.